Chain Beat Dropper. Voglio una storia vera, ma fino a un certo punto te ne regalo il riassunto. Ma dove sono giunto? Accade sto schifo di strade dove il male invade. Sono enigmi sadici come quelli di John Clark. Meglio storie stupide come quelle di Pink. Meglio essere socievoli ma solo dopo troppi drink. Meglio non smazzare copie ma smazzare link. Mo io preferisco il jazz di Steve Klink. Non contano i posti in cui ti installi, nei programmi che installi, i film di piedistalli. Mi trovo il suo di sé alla faccia di Stanley, con più calore che all'interno della Death Valley. Me la vivo così, street wars come Cypress Hill. In una guerra tra poveri come Mr. Phil. Ti spiego i vari significati del verbo to kill. Su sta base col campione degli Asha Putil. Ok, veniamo a noi, che storie vuoi ascoltare? Flagger le b-boy, perseverare o mollare. Il giusto o sbagliato, il rispetto o la forza. Non importa finché c'è qualcuno che ascolta. Ok, veniamo a noi, che storie vuoi ascoltare? Indiani o cowboy, restare o scappare. Il male e il bene, chi si arrende e chi lotta. Non importa se c'è qualcuno che ascolta. Vuoi storie di onestà, concetti amabili, ma l'onesto amore quando nascono i soldi facili. Storie piccanti, molto più del Kerry. Su una soundtrack molto hot, tipo Barry. Fottiti se viene il giorno in cui ti illudi. Tutto si trasforma in una scena alla Scary Movie. Puoi dare tanto, ma ti sarà dato meno di niente. Sei solo carne da dare in pasto a sta povera gente. Che prima ti fa illudere, poi ti delude subito. Ce la fai nel dubito, ma senti da che pulpito. Senti zio, non c'è un fuoco forte come Dio. Non piango sul latte, se il latte l'ho versato io. Non combatto una battaglia al cielo aperto. Difendo il mio modo di vivere perché l'ho scelto. E se sarà la musica la matrice in superficie, la difendo coi denti perché mi rende felice. Ok, veniamo a noi, che storie vuoi ascoltare? Flagger le b-boy, perseverare o mollare. Il giusto o sbagliato, il rispetto o la forza. Non importa finché c'è qualcuno che ascolta. Ok, veniamo a noi, che storie vuoi ascoltare? Indiani o cowboy, restare o scappare. Il male e il bene, chi si arrende e chi lotta. Non importa se c'è qualcuno che ascolta.